Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Sono l'ultimo. Sento le porte del treno chiudersi dietro di me e vedo le ombre dei passeggeri dissolversi nella semioscurità della stazione. Non lo so, c'è qualcosa che non va. Poi leggo il cartello. Gorizia. Ottimo. Bravo Giancarlo. Mi chiamo Giancarlo Murkovic, vivo a Trieste, sono un cittadino del mondo con radici triestine e croate. Da alcuni decenni ormai dirigo un gruppo di imprese commerciali operanti nel settore energetico. Immaginate di dover prendere una coincidenza ad una stazione X, di prendere un treno, di scendere a una stazione convinti che sia la stazione X e invece è la stazione Y. Tutto sembra ormai andato storto, i vostri giorni di vacanza o di lavoro che avete in programmazione, e invece poi succede che la stazione Y diventi la stazione giusta. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, sono le 16:09 e il titolo della puntata di oggi potrebbe essere: per fortuna tutto è andato storto. 349-238-6666 è il numero degli sms per scriverci di quella volta in cui davvero tutto sembrava andato tutto era veramente andato in un modo totalmente inaspettato, ma in vacca, tutto era andato in vacca, bravo Tiziano. E invece poi a un certo punto quell'essere andato in vacca si è trasformato in una sorta di beneficio, direi. 349-238-6666 gli sms, dicevo, altrimenti c'è un profilo Facebook del programma, che voi siete qui, Radio 24, in cui Carla ha scritto questo messaggio, che è perfetto. Mia figlia, 8 anni, per un incidente prese una botta al naso. Al pronto soccorso mi dissero che doveva essere operata subito. Per una serie di coincidenze tutto fu rimandato il giorno del ricovero, un'altra sera... tutto viene mandato. Giorno del ricovero, altra serie di contrattempi. Alla fine, dopo essere stati in ospedale dalle 6 del mattino alle 17, non aveva ancora un letto. Contro il parere dei medici firmai e la riportai a casa. La sera stessa, per merito di una conoscente, la portai da un chirurgo. Una piccola manipolazione al naso e in pochi secondi tutto si sistemò senza interventi chirurgici. Alle volte penso che un angelo ci abbia dato una mano. Chiamatelo come volete. Chiamatelo angelo, chiamatelo caso, chiamatelo gioco dei puntini o chiamatelo divina provvidenza, come la chiama Giancarlo, ma delle volte è una fortuna che tutto vada storto. Quelle volte, se avete voglia di raccontarle, lo fate al 349-238-6666. Giancarlo invece ha scritto una mail, ha scritto una storia e quella storia è diventata un racconto. Il fatidico giorno era finalmente arrivato. Un venerdì di fine primavera si andava a Vienna per presenziare alle nozze dei miei due amici austriaci, Andreas e Sandra, conosciuti a un convegno. Ero emozionato, anche se di viaggi ne avevo già fatti parecchi. Il primo era stato in pullman da Trieste a Zagabria, avevo 11 anni. Un atto di responsabilità da parte dei miei genitori, o forse di irresponsabilità, non lo so. A 22 anni ritrovavo alle spalle una lunga serie di giri per tutti i continenti. Io sono ben radicato in Italia e le mie radici sono in Croazia, ma mi sento un cittadino del mondo. Insomma, quel giorno, arrivato trafelato in stazione centrale, faccio biglietto e obliterazione al pelo, con la solenne promessa fatta a me stesso di non lasciare più tutto all'ultimo minuto. Partenza direzione Udine, dove era previsto il cambio per Vienna. Ho avuto la fortuna, nella mia ormai lunga vita, di viaggiare molto. Ho viaggiato nei diversi continenti e per questo amo ripetere che mi sento un cittadino del mondo. Ma essendo le mie radici in Europa, mi sento particolarmente legato al nostro continente. E ho viaggiato molto in lungo e largo, conosco i vari paesi, dalla Finlandia al Portogallo, dal Portogallo a Malta, e devo dire mi sono trovato dappertutto a casa. Erano da poco passate le 8 di sera e io ero contento. Oltre a pregustarmi il fine settimana davanti a me, mi trovavo ormai quasi del tutto assorbito dalla lettura delle prime pagine del Grande Gatsby. America vellutata degli anni 20 e storie che si svolgevano tra New York e Long Island. Quando a un tratto vedo buona parte dei miei compagni di viaggio avviarsi a scendere. Che strano, penso. Possibile che fossi così preso dal Grande Gatsby da non accorgermi nemmeno che eravamo già arrivati a Udine.

E allora, quando arriva l'elicottero dei Vigili del Fuoco, lui dice che non ne ha bisogno perché Dio gli ha già promesso che lo salverà. E poi allora arriva un gommone dei Vigili del Fuoco, perché lui è sempre lì sul tetto e l'acqua continua ad alzarsi. Lui però non ci sale, dice grazie, ma presto Dio mi salverà, me l'ha detto. Poi l'acqua arriva ben oltre il tetto e l'uomo affoga. Si ritrova in paradiso e quando incontra Dio gli chiede perché non gli ha mandato qualcuno a salvarlo. E Dio dice, io ci ho provato, ma più che mandarti un elicottero e un gommone non potevo fare tanto. Io di solito quando devo andare a sciare piove, quando devo andare in barca c'è bonaccia e quando devo andare al cinema c'è un allarme bomba. Mi ricordo che il giorno in cui volevo chiedere alla mia prima quasi fidanzatina se voleva venire con me a Luna Park, le è morto il gatto e lei ha pianto per 2 settimane di fila, finché il Luna Park se n'è andato ed è finita lì. Cose come queste qualcuno le chiama sfiga, probabilmente, eppure io le chiamo sfiga, anche se la spiegazione razionale c'è, ed è che noi sostanzialmente tendiamo a ricordare gli eventi particolarmente significativi ed eccezionali e tendiamo a dimenticare quelli che rientrano nella norma. Per esempio, quando cerchi parcheggio e lo trovi, o quando tifi una squadra e quella vince, ecco, in quei momenti non pensiamo lassù qualcuno ci ama, anzi, ci sembra una cosa normale. Forse è solo che siamo tutti degli ingrati, o non sappiamo arrenderci al fatto che quello che non possiamo controllare sia probabilmente governato dal caso. Io come al solito non so nulla, ma quella volta in cui su una strada di montagna ho bucato una gomma e ho imprecato parecchio, e mentre mi accostavo al bordo della strada ho visto una frana cadere sul rettilineo che avrei dovuto percorrere, ecco, lì ho detto grazie, anche se non so bene a chi. You can take it on. Per fortuna tutto è andato storto. Questa è la sostanza della puntata di oggi e della storia di Giancarlo. E Francesca scrive sul profilo Facebook: sbagliare sala al cinema è vedere un film che non saresti andato a vedere ma che poi ti piace di più di quello prima. Conta? Conta, come no. 349-238-6666. Qualcuno appunto lo chiama caso, qualcuno lo chiama destino, qualcuno, come nel caso di Giancarlo, divina provvidenza. Pronto Giancarlo? Pronto, buon pomeriggio Matteo. Buongiorno, come stai? Grazie, non c'è male. Dove ti trovi? E nel mio ufficio. Mi dici esattamente, per grandi linee, che cosa fai Giancarlo? Ma io ho un'attività imprenditoriale che porto avanti da diverso tempo con mio fratello e poi altri interessi in campo culturale. Ma l'attività imprenditoriale... È un'attività di import-export, faccio l'imprenditore in proprio e poi il consulente per alcune aziende italiane che operano all'estero. Quando tu dici che sei un cittadino del mondo, insomma si capisce dal tuo... A parte che il tuo racconto parla di un viaggio, poi si capisce dalla tua storia che tu viaggi, hai viaggiato tantissimo nella tua vita, no? È vero. Mi dici... Il primo viaggio internazionale, dico sempre, l'ho fatto quando avevo 11 anni. Quello in autobus di cui sì, parli, no? Partendo da Trieste per andare a Zagabria. A Zagabria perché tu hai delle origini lì, giusto? Sì, sono croato di origine. E sei arrivato in Italia quando? In realtà sono arrivato attraverso l'Argentina, perché sono nato a Buenos Aires. Quindi già i tuoi genitori, aspetta un attimo, perché non è Trieste non è proprio sulla strada Zagabria-Buenos Aires, quindi, o meglio il contrario, Buenos Aires non è proprio sulla rotta Zagabria-Trieste, quindi ci spieghi, facciamo un passo indietro, i tuoi genitori... Entrambi croati, okay. Con, nel primo dopoguerra, fuggendo dalla nuova situazione che si era creata politica, no? L'avvento di Tito, okay. Hanno deciso di lasciare il proprio paese e si sono trovati a Trieste, dove si sono conosciuti e sposati. Solo che a Trieste c'erano come loro tantissimi altri profughi, certo. Che non avevano, mio padre era magistrato, mia madre casalinga, ma non avevano la possibilità di crearsi un futuro qui, allora come tanti hanno scelto un paese, quello che secondo loro prometteva meglio era l'Argentina e così sono nato a Buenos Aires, tra l'altro in un ospedale tedesco, perché mia madre, sono di una famiglia abbastanza numerosa con 8 figli, sì. E allora i miei sono stati lì però per un breve periodo perché poi hanno visto che la situazione con Perón andava preoccupante, stava deteriorando e hanno deciso di ritornare in Europa. Dovevamo andare a Monaco di Baviera per scelte dei genitori che parlavano entrambi il tedesco. Certo. Perché correggere la cosa più, però poi per questioni di visto siamo rimasti a Trieste. Da allora, da quando avevo 9 anni, io vivo qui. Ok, ce l'abbiamo fatta. Quindi arriviamo a Trieste. A Trieste, in che anni siamo più o meno? Siamo negli anni 60-70. Anni 60. Appunto, essendo parte di una famiglia numerosa, i genitori avevano un rapporto con noi molto aperto e ci davano, ci responsabilizzavano. Quindi a 11 anni ti mettono su un pullman e ti mandano a Zagabria. Sì, benissimo. Da solo, senza chiaramente raccomandandosi l'autista, e lì poi avevo i nonni, perché loro erano rimasti invece in Croazia, e ho incominciato così, poi in altre situazioni, con amici, campeggi in Francia, ricordo uno dei primi viaggi proprio fatti quando avevo avuto con mia sorella il primo viaggio a Parigi, ma a 13-14 anni. Giancarlo, scusami, lo chiedo a te perché è un modo di dire che si usa molto spesso, no? Il fatto di sentirsi cittadini del mondo. Tu, in due parole, perché mi sembra la persona adatta a cui chiederlo, mi spieghi qual è il significato reale del fatto di sentirsi cittadini del mondo, se non che uno ovunque si senta a casa propria, ok? Ma c'è un significato più alto, più profondo, che ha a che fare con il fatto che l'essere umano c'ha voglia di mangiare, dormire e fare poco altro ovunque si trovi? O non so, sto banalizzando, Per i motivi che ti dicevo, nato a Buenos Aires, su suolo tedesco, perché c'era l'extraterritorialità per gli ospedali, anche sì, ad esempio, suolo tedesco, con un padrino di battesimo amico di papà svedese. Ok, insomma, sono gli ingredienti, polacca. Sono più gli ingredienti che fanno il piatto, mi sembra di capire. Okay. In casa abbiamo sempre parlato il croato, anche se avevamo un ambiente internazionale, perché i genitori erano, la nostra casa era un porto di mare con personalità di varie origini, di varie provenienze. E alla fine, quando sono arrivato in Italia, ho preso il passaporto, io ho una sola cittadinanza, quella italiana, e la gente, quando sentiva questo racconto, dice: ma tu cosa ti senti? Sono cittadino del mondo, perché dove vado mi sento a casa. E come stai in Italia? Ti piace? Molto. Ok, Giancarlo, innanzitutto Giancarlo Damir, giusto? Sì, perché a casa, a Buenos Aires, non permettevano l'iscrizione con i nomi nelle proprie lingue. Ah, ok. E allora, ecco, io sono stati costretti a darmi il nome di Juan Carlos, che poi per questioni di praticità... Io mi sto un po' perdendo. Andiamo al racconto, altrimenti andiamo avanti fino... La storia, sì, è vero, hai ragione, la storia è molto lunga. Andiamo invece alla storia nostra, cioè quando sali su un treno e qualcosa, tu dici, è come se una mano mi avesse preso e buttato giù da quel treno. Ed è così, perché tu stai leggendo, vedi della gente che scende, decidi di scendere anche tu, scendi nella stazione sbagliata e poi quella giusta. Non ho capito in un momento, ho detto, ma la distrazione, o meglio, perché mi sentivo preso dal libro, sì, il grande Gatsby di Scott Fitzgerald, sì, lo ricordo benissimo, perché l'avevo appena cellofanato in quel momento, no? Partendo da Trieste, e vedo, ma dico, è così bello sto libro che mi ha preso e non mi sono accorto che siamo passati oltre, certo, andati tanto, certo, e sono sceso con gli altri senza verificare cosa che facevo. Giancarlo, guarda, ma sai che mi sono accorto che abbiamo fatto tipo 6 minuti di chiacchierata senza parlare del racconto, io devo mandare la borsa. Va bene. Per cui credo sia la prima volta in cui giriamo intorno all'argomento e non riusciamo ad affrontarlo, però ti ringrazio, perché grazie. Comunque la storia è stata, anche se mi ci sono perso dentro, è stata interessante. In bocca al lupo per tutto. Grazie a te. Ciao Giancarlo, grazie. Voi siete qui. Oh, questa è una foto ufficialmente in posa, quella di Giancarlo. Cioè non è una di quelle foto rubate, non è una foto fatta autoscatto. È proprio che si vede che si allaccia un bottone della giacca. Quindi ha proprio detto, aspetta un secondo che mi sistemo. Ha una bella faccia piena Giancarlo, i capelli un po' brizzolati, e secondo me assomiglia moltissimo a John Voight. Provvidenza. Sostantivo femminile. L'azione costante esercitata da Dio sul mondo creato, specialmente in quanto esplicazione di un'infinita saggezza. Figurativo. Evento fortunato e imprevisto. È stata una vera provvidenza che tu sia venuto. Provvedimento diretto a sopperire a particolari bisogni. Arcaico. Previdenza. Etimo dal latino providentia, previdenza, prudenza, e quindi, per metonimia, provvidenza divina. Data prima metà secolo XIII. Devo dire